c'era lei nella vita mia. Solo ieri c'era un sole che metteva allegria e io mai credevo proprio che mai più andasse via. Forse è stata tutta qui la mia ingenuità. Solo ieri, quando era più leggera la mia età, ora so si paga in pianto, però per crescere di più, ora lo so. Parlerò al futuro, perciò guarderò più in là nel tempo, con la convinzione che ho, che da questo momento ne uscirò. No, non può finire qui, la vita inventerò ancora per un po'. No, non può finire così, troverò e rinascerò. Già da domani poi, pensando ad oggi, dirò è solo ieri ormai. Prima cosa che farò, via non butterò tutto quello che di buono costruito fino a qui, e da qui io ripartire vorrei dai nuovi passi miei. Ricomincerò, parlerò al futuro, perciò, perché c'è compreso il mio, qualche dente sta ce l'ho. Non ci sto. No, non può finire qui, la vita inventerò ancora per un po'. No, che non può finire così, non può finire, perché vedo che davanti a me un po' di luce c'è. Già da domani poi, pensando ad oggi, dirò è solo ieri.